benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Vi ricordo che il nostro orario di trasmissione è lievemente modificato, infatti potete sentirci solo su Trasmissione di Fase ogni venerdì alle ore 20:30 e in replica sabato dalle ore 20 alle ore 20:30 circa. In questo numero comunque ci occuperemo di alcune questioni. Partiremo con una notizia che riguarda il movimento internazionale. Infatti in India è stato assassinato il leader maoista Kim Gestein, speriamo di aver pronunciato bene, e si preannunciano in tutto il mondo e anche in Italia forse delle iniziative di solidarietà. Continueremo a parlare poi di repressione in Italia e quindi leggeremo il comunicato di solidarietà con fuoriluogo a Bologna, mentre parleremo poi di lavoro con la mobilitazione dei lavoratori a Trapani, e infine chiuderemo con l'ambiente, con una questione che riguarda la Calabria, e leggeremo un articolo comparso sul Manifesto che parla di acqua rossa della diga calabrese. Buon ascolto su Transizione di Fase e continuate ad ascoltare Indie Radio. Partiamo con una notizia internazionale. Infatti è stato ucciso negli scorsi giorni Kim Gestein, supponiamo sia questa la pronuncia esatta, o almeno ce lo auguriamo, un leader del Partito Comunista Maoista indiano. Ebbene, dopo l'uccisione di questo leader si è avuta in tutto il mondo una serie di reazioni, e in particolare leggiamo sul Newsguard di Media Calabria un appello per costruire iniziative per una campagna di solidarietà internazionale che dovrebbe partire dal 14 fino al 21 dicembre e si dà poi anche una mail, ma noi vi consigliamo di verificare attraverso il news guardian di Media Calabria, dove appunto potete trovare questa notizia. Comunque la mail è csgpindia@gmail.com. A seguire poi vi è il comunicato ufficiale del Partito Comunista dell'India Maoista del 25 novembre 2011, che recita così. Non leggiamo tutto il nome perché appunto siamo sicuri di non riuscirci. Dunque, questo membro Kinjestein del Partito Comunista Maoista, membro del bureau politico del Partito Comunista dell'India Maoista, è stato ucciso in una zona boschiva del Bengala occidentale il 24 novembre scorso. Le autorità hanno sostenuto che il compagno Rao è stato ucciso in uno scontro a fuoco durante un'operazione che ha coinvolto circa 900 truppe paramilitari e polizia di Stato, tra cui i Commandos Cobra, appositamente addestrati a combattere in un movimento rivoluzionario guidato dai maoisti che ha base nelle aree rurali dell'India centrale e orientale. Una dichiarazione del partito rilasciata il giorno dopo diceva che era stato arrestato, torturato e ucciso. Al funerale nella sua città natale, Peddapandi, supponiamo si dica così, lo scrittore rivoluzionario Varara Rao ha dato lettura alla seguente dichiarazione del Comitato Centrale del Partito. Il 24 novembre 2011 rimarrà una giornata nera negli annali della storia del movimento rivoluzionario indiano. La cricca fascista al potere, Sonia, ma non male. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Sono nomi troppo distanti dalla nostra lingua. Insomma, si accusa praticamente il partito al governo, le lobby che sono al governo, di essere la propria minaccia alla sicurezza interna, in collusione col primo ministro del Bengala occidentale. Hanno ucciso dunque il compagno di cui stiamo raccontando la storia, e si tratta dunque di una ben pianificata cospirazione. E poi cerchiamo un attimo di sintetizzare. Ci sono una serie di morti che vengono additati da questo comunicato alla suddetta cricca del potere, e quindi si denunciano una serie di questioni. Vi ricordo che chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni, vi ricordo di visitare il sito di Calabria di Media Newswire, dove trovate appunto una definizione del più lunga e molto esaustiva di tutta una questione che fondamentalmente ai più in Occidente è sconosciuta. Quindi si parla di queste lotte che vengono represse, come vediamo, nel sangue. Se ci saranno aggiornamenti vi informeremo. Confessiamo noi stessi di non essere molto preparati sull'argomento e vedremo che cosa succederà in seguito. Siamo infatti spesso abituati ad ascoltare le storie dell'India, a sentir parlare di questo grande paese così lontano, come di un paese dove fondamentalmente esistono solo bancarelle, braccialetti e film di Bollywood. In realtà, come vediamo da queste notizie, la realtà sarà sicuramente ben diversa dall'immagine esterna che ci giunge da questo lontano paese. We'll be right back. Leggiamo adesso un comunicato comparso sul Newswire, sempre di Calabria Indie Media. Si tratta di un comunicato delle compagne femministe e lesbiche in solidarietà con Fuori Luogo. Nel 42esimo anniversario dell'orrenda strage di Piazza Fontana, che i tribunali italiani hanno decretato essere senza responsabili, a Bologna comincerà il processo alle compagne e ai compagni anarchici del centro di documentazione Fuori Luogo. Poco importa che quella data sia uno scherzo del destino o una coincidenza non casuale. Rilevante è che a distanza di 40 anni lo Stato capovolga la storia, portando sul banco degli imputati compagne e compagni che si sono spesi generosamente nelle lotte contro lo sfruttamento, le nocività e i cielager della democrazia. L'attacco alle compagne e ai compagni di Fuori Luogo, accusati di associazione per delinquere, oltre a essere un'operazione sporca e manipolatoria, è anche un segnale chiaro a tutte e tutti coloro che si riconoscono in collettivi e gruppi informali per contrastare lo stato di cose esistente. Come compagne femministe e lesbiche ci schieriamo apertamente dalla parte di Fuori Luogo, perché con queste compagne e con questi compagni abbiamo condiviso un tratto di percorso nella lotta contro i CIE, nel rispetto delle reciproche specificità e senza dover fronteggiare alcun tentativo di egemonia. Perché per noi la vera associazione criminale è quella di chi devasta, saccheggia, militarizza e bombarda le vite e i territori in nome del profitto, degli interessi di pochi. Perché siamo consapevoli del nostro essere fuori legge, tra virgolette, lo diciamo per chiarezza, nel momento in cui abbiamo scelto di contrastare senza mediazione alcuna la violenza patriarcale dello Stato, dei suoi apparati e dei suoi servitori in divisa. Perché non ci interessano né la spartizione del potere né le briciole istituzionali offerte alle donne per addomesticarle e farle complici di un sistema fondato sull'ingiustizia di classe e sul suprematismo razziale. Perché sappiamo che la montatura orchestrata ai danni e dei fuoriluogo è la prova generale della gestione repressiva del conflitto sociale che va allargandosi e radicalizzandosi. Una gestione repressiva che non risparmierà nessuna e nessuno davanti a quella alla quale è eticamente urgente prendere una posizione netta ed esprimere solidarietà attiva a chi ne è attualmente colpita e colpito. Perché come donne autodeterminate conosciamo fin troppo bene la strategia di intimidazione, criminalizzazione e repressione di chi non accetta di piegarsi alle norme dominanti. La storia delle cacce alle streghe e dell'internamento delle donne ribelli ne è testimonianza. A tutto questo vogliamo anche aggiungere il nostro disgusto nei confronti delle infami operazioni giornalistiche che hanno sostenuto l'operazione giudiziaria contro le e i fuoriluogo, innanzitutto da parte di quei pennivendoli che all'indomani delle perquisizioni e degli arresti di una compagna che apprezziamo e stimiamo, ne hanno fatto un ritratto volutamente caricaturale e perverso proprio in quanto donna e donna matura, e poi anche da parte dell'Espresso che con il pretesto di un'inchiesta sui Black Bloc ha ritratto le e i fuoriluogo come un gruppo di fanatici squadristi, razzisti e sessisti, allo scopo di delegittimare e screditare con l'infamia non solo questi compagni e compagne, ma anche chi, come noi femministe e lesbiche, ne ha condiviso un tratto di strada. Il 12 dicembre saremo in piazza a Bologna a fianco delle compagne e dei compagni di Fuori Luogo e facciamo appello alle compagne femministe e lesbiche che lottano contro le gabbie e le violenze dello Stato patriarcale perché partecipano al presidio indetto in piazza Nettuno a Bologna a partire dalle ore 10 o in alternativa ad organizzare nel proprio territorio iniziative di solidarietà con le e i processati e contro questo sistema di profonda ingiustizia sociale, di repressione e di controllo. Non siamo complici. Coordinamento femminista e lesbica di collettivi e singole Roma. Collettivo femminista Magliana Roma. GLF, gruppo di lavoro femminista Roma, contro i CIE e contro il controllo sociale. Alcune compagne milanesi. E queste erano le firme in calce al comunicato di cui vi abbiamo dato lettura, che vi ricordo è stato pubblicato sul Newswire di Indie Media Calabria. Yeah. fatto, anche adesso non mi va. Quante volte le ho sentite le parole della verità, quante volte le ho credute l'unica fottuta realtà. E ora giro per locali, mi stupisce la puntualità delle mode musicali, giro come un disco, non mi fermo. Questa notizia ci spostiamo invece nell'ambito del lavoro, un lavoro sempre più negato, un lavoro sempre più difficile da ottenere e da salvaguardare. Leggiamo dunque questo comunicato che è stato pubblicato sul Newsline di Calabria Indimedia, infatti scende in piazza l'occupazione della petroliera a Trapani. Questo comunicato è la firma del collettivo di lavoratori di lotta del cantiere navale di Trapani, che scende appunto in piazza. Il pomeriggio di domenica 4 dicembre il centro cittadino di Trapani è stato scosso dal corteo del collettivo dei lavoratori che da mesi lottano per il proprio posto di lavoro al cantiere navale del capoluogo di provincia. La vicenda è l'esempio più classico dei tentativi da parte capitalista di utilizzare lo spauracchio della crisi per cercare di estrarre il massimo del profitto possibile. La risposta dei lavoratori è l'esempio migliore di come contrapporre all'arroganza padronale la determinazione operaia. Quest'estate il gruppo Satin CNT, l'ente gestore del cantiere navale, ha annunciato di voler rinunciare al completamento dei lavori sulla marettimo M e di intraprendere dunque le procedure di mobilità nei confronti di 58 dipendenti. La petroliera Murettino M fu commissionata alla Satin dalla società siracusana Augusta 2 del gruppo Mauer di Roma e i lavori sono proceduti senza intoppi fino al varo effettuato il 22 maggio 2009. La nave, 136 metri di lunghezza e 26 di larghezza, deve essere ancora ultimata all'interno, ma la indigenza dei cantieri, facendosi scudo di una situazione di crisi finanziaria e rincorrendo le richieste di istituti di credito per consolidare il proprio debito, ha deciso di tagliare in toto la voce dei costi personali e di licenziare in blocco gli operai. Se non bastasse, l'invenzione di una crisi ad hoc per speculare sulla pelle dei lavoratori, ad acuire la loro rabbia, c'è il paradosso che la consegna della nave non ultimata porterebbe nelle casse dell'azienda tra i 2 e i 3 milioni di euro, soldi sufficienti a pagare gli stipendi ed ultimare i lavori, e che invece la Satin vuole utilizzare per finanziare le mobilità. Così, quando a metà novembre la società armatrice ha manifestato l'intenzione di trasferire la nave presso un altro cantiere per i lavori che restano ancora da effettuare a bordo, gli operai hanno iniziato l'occupazione della petroliera. Questa nave da qui non si muove, avvertono i lavoratori, perché se succedesse l'armatore dovrebbe versare al gruppo Satin CNT circa 2 milioni di euro per gli ultimi interventi effettuati dal cantiere navale di Trapani, ed ormai sappiamo che questi soldi non verrebbero utilizzati per garantire il mantenimento dei nostri posti di lavoro. E allora ci siamo presi quello che è nostro, quello che abbiamo fatto con le nostre mani e con i nostri sacrifici. Abbiamo occupato la petroliera Marettimo M. Siamo preoccupatissimi per il nostro futuro, ma siamo determinati. Non scenderemo dalla nave finché non ci verranno date risposte concrete. Un'occupazione dunque dura e duratura, che accompagna con rumorose sessioni di tamboreggiamento le silenziose serate trapanesi per rimarcare quotidianamente a cittadinanza e istituzioni la presenza degli operai sul ponte della nave, presenza che viene colpevolmente ignorata dai media mainstream e dalle istituzioni ad ogni livello, dal comune alla prefettura passando per la regione, proprietaria del cantiere da anni in concessione alla Satin, complici in questo modo della criminale gestione dell'azienda. A settembre di quest'anno, per rispondere alle prime minacce di licenziamento da parte dell'ente, gestore del cantiere navale di Trapani, si è costituito il collettivo. Il 26 novembre, dopo i ripetuti tavoli di trattative senza alcun risultato e la decisione di portargli via il lavoro, l'ulteriore passo. 20 operai sono saliti ad occupare la petroliera, ancora in porto. Ieri, cioè domenica 4 dicembre, il primo corteo comunicativo tra le vie del centro cittadino per cercare di allargare il fronte della protesta. La lotta del collettivo autonomo dei lavoratori in lotta del cantiere navale di Trapani ha conosciuto una rapida e consistente crescita e sembra proprio non conoscere padroni e compromessi. E seguono poi alcune foto che sono state appunto pubblicate, come dicevamo, sul newswire di Indymedia Calabria. Leggiamo un articolo pubblicato sul Manifesto negli scorsi giorni di novembre, e che articolo che è stato ripostato anche su Calabria Indymedia nell'apposita sezione Altri Media. Questo articolo, a firma di Claudio Dionesalve e Silvio Messinetti, parla di un ennesimo disastro ambientale. Parla di un'acqua torbida, un'acqua colore marrone dell'invaso di Alaco, che è stata fatta analizzare, secondo queste analisi appunto conterrebbe una quantità di ferro e manganese che sono al di sopra della norma, e così come la torbidità dei campioni analizzati. Secondo i cittadini è colpa dell'invaso della Laco, cioè una diga a 1000 metri d'altezza nel territorio comunale di Brognaturo, che garantisce l'acqua potabile a circa 400.000 persone a cavallo tra le province di Vibo e Catanzaro. La diga della Laco è un'altra incompiuta. L'invaso era stato terminato da Sorical, la società risorse idriche calabresi, nel 2004, ma dal 2006 è cambiato tutto. C'era da rendere potabile l'acqua che arrivava alla diga e la società mista, il cui socio privato è la multinazionale francese Veolia, aveva un obiettivo virtuoso, quello di inviare più acqua ai comuni. Come lo abbia perseguito però ha lasciato perplessi i tecnici. Le procedure basilari da seguire per preparare l'acqua al trattamento sono state adottate in maniera troppo rapida, approssimativa. Il risultato? Il liquido che arriva dall'invaso ha caratteristiche chimico-fisiche molto variabili e di qualità scadente, al limite della possibilità di trattamento. Inoltre contiene, come detto, una quantità elevatissima di manganese e ferro, oltre ad altre sostanze dovute alla decomposizione delle piante sommerse e un forte inquinamento batteriologico dovuto ad escrementi animali. Nonostante tutto si è continuato con la potabilizzazione, senza neppure installare due analizzatori in continuo del ferro e del manganese. La diga è stata riempita senza fare le dovute bonifiche, senza eliminare la vegetazione presente sul fondo, raccontano gli attivisti del coordinamento delle serre per la difesa dell'acqua. Loro vivono a Serra San Bruno, 7.000 anime a 800 metri sul livello del mare. Anche il sindaco di Serra è dello stesso parere, infatti ha emesso un'ordinanza di non potabilità per ferro e manganese, appunto, che è stata revocata solo all'inizio di aprile, dopo 38 giorni. L'impianto di potabilizzazione è sottodimensionato, accusa il coordinamento, ed è concepito per trattare acqua del sottosuolo, non di superficie. Abbiamo raccolto 1000 firme in calcio a una petizione per chiedere che i dati delle analisi siano resi pubblici. Il paradosso è che l'area delle Serre Calabresi è una delle più ricche d'acqua in Italia. Qui si bottigliano 4 marchi di acqua minerale, ma i nostri acquedotti erano alimentati da pozzi e oggi questi acquedotti sono stati dismessi. Maurizio Del Re di Sorical ribatte alle accuse. Noi eccepiamo sul fatto che il sindaco abbia emesso una ordinanza di non potabilità. Facciamo 120.000 misurazioni all'anno. Per Sorical la colpa è del comune. Per il comune è di Sorical. Ci fosse il servizio idrico integrato, queste manfrine non esisterebbero. L'ARPACAL nell'agosto del 2010 ha emesso il proprio giudizio. Il problema è nell'impianto di adduzione, ovvero la diga della Laco. Un'altra incompiuta. Quella della Laco è la solita diga calabrese come quella di Melito, della quale sul manifesto insomma, ci informano che è stato già trattato il 25 gennaio, o quella del Menta. A partire dal dato economico, a fronte di una spesa prevista di 15 miliardi di lire, l'opera è costata 150 miliardi. Un disastro progettuale, 6 varianti tra il 1985 e il 1996, più 9 sospensioni dei lavori e gestionale, con conflitti di attribuzione che rimbalzano tra Sorical, che dà la colpa alle condotte dei comuni, e amministratori locali per i quali il problema è la Laco. Lavori tagliati sia per la costruzione dell'invaso che per l'ampliamento dell'impianto di potabilizzazione. L'appalto per quest'ultimo è stato bandito nel 2006, se lo è aggiudicato la ditta Idrotecna, che avrebbe dovuto completare i lavori entro il 30 maggio 2008. Lo scopo? Realizzare il progetto redatto dalla Sorical per trattare 600 litri di acqua al secondo. Più che le performance dell'impianto fino ad ora si sono visti i contenziosi che hanno contratto. I lavori sono stati affidati a piccole ditte e ancora oggi non sono stati completati. Per di più ci sono perplessità sul funzionamento dell'impianto. Fonti accreditate raccontano che per almeno 2 anni i fanghi non venivano disidratati e venivano prelevati allo stato liquido con autobot e trasportati con costi al di fuori di ogni logica. Le stesse fonti segnalano che le acque di risulta del lavaggio dei filtri e della disidratazione dei fanghi, che oggi non avviene, non vengono smaltite ma reimmesse. alla testa dell'impianto. Il guaio è che sono acque che arrivano dal trattamento di ferro e manganese e finiscono per peggiorare le caratteristiche del liquido in ingresso e complicano il funzionamento di tutto il sistema di potabilizzazione. Un circolo vizioso del quale non si sentirebbe il bisogno. A queste latitudini però le dighe funzionano così e costano 10 volte tanto rispetto a quello che è stato previsto. Qualcuno ci guadagna, si può intuire chi. Un bossolo per il silenzio. Sergio Gambino è un ragazzone antico nei principi, moderno nel coraggio, si scalda quando deve difendere la propria terra, sorride di fronte alle minacce, non si lascia imbottigliare nell'immagine del martire antimafia che da queste parti, come altrove, regala all'andrangheta la più efficace delle propagande, quella che viaggia sul terrore. Sergio, figlio di Saro, uno degli scrittori più autorevoli del Mediterraneo, ha risposto con insolita strafottenza ai vigliacchi che qualche giorno fa gli hanno recapitato sulla porta di casa una cartuccia di Lupara. Nel rivendicare le proprie origini politiche e culturali, siamo partigiani che lottano per la libertà della Calabria, ha lanciato un chiaro segnale di sfida ai custodi dell'omertà e a chi li paga. Ve ne dovete andare da questa regione che è nostra, sostiene. Nei mesi scorsi, insieme al coordinamento Bruno Arcuri, all'associazione Briganti e alla rete Nisticò, ha percorso le Calabrie lungo e largo per promuovere la partecipazione ai quesiti referendari sull'acqua pubblica. Destava una piacevole impressione sentirlo urlare in piazza contro gli invasori delle multinazionali che depredano e avvelenano questo lembo di stivale, dallo stretto di Messina fino ai Monti del Pollino. Li ricacceremo da dove sono venuti, a calci nel sedere, come fecero i nostri antenati. Briganti, che diedero filo da torcere ai francesi. Qua giù non è frequente ascoltare frasi del genere, anche tra i movimenti carismatici affiorati di recente, quasi tutti si guardano bene dal fare nomi e cognomi. Sergio fa nomi e cognomi, rientra in una vivace minoranza di attivisti pensatori che negli ultimi anni è andata allargandosi per effetto soprattutto delle buone letture e sulla spinta di pensatori eretici, distanti anni luci dai falsi miti risorgimentali che qui sono nella testa delle passate e presenti generazioni. Questi giovani militanti della difesa dei beni comuni si tengono distanti anche da romantiche tentazioni neoborboniche. Dai propri coetanei non hanno assimilato i tre mali peggiori di Calabria: la servitù nei confronti dei partiti politici, il disprezzo verso la propria terra, la mancanza di memoria. Sergio e quelli come lui conoscono bene questa regione, la amano e in nome di questo amore sarebbero disposti a sfidare qualsiasi mamma santissima. A metà del decennio scorso gli attivisti briganti furono tra i primi a scatenare un aspro conflitto contro Sorical quando la società mise in opera la diga della Laco. Lo hanno denunciato pubblicamente in mille modi. I fondali del lago non sarebbero mai stati bonificati dalla presenza di sostanze inquinanti. Assurdo e pericoloso dunque rifornire con dell'acqua decine di migliaia di famiglie e, per dimostrare l'attualità del problema, nonché l'inconsistenza delle iniziative assunte da certe istituzioni per risolverlo, negli ultimi mesi Gambino e compagni hanno continuato a monitorare la Laco, prelevando campioni di acqua che sono serviti a produrre una controinchiesta dal basso. A qualcuno forse deve aver dato fastidio la vista di quei giovani che andavano e venivano dal lago per svolgere analisi proprio. E puntuale è partito l'avvertimento malavitoso. Per chi voleva impaurire Sergio ha ottenuto l'effetto contrario. Le reti regionali, le associazioni ambientaliste, il coordinamento delle serre per il diritto dell'acqua si sono subito stretti intorno a lui. È un movimento che a Crotone, nella manifestazione per la fine del commissariamento all'emergenza rifiuti, 2 settimane fa, è riuscito a convocare oltre 2.000 persone. Diciamo di più, dai. Questo raggiungiamo noi. E non è detto che questo non possa avvenire anche a Serra San Bruno. A volte le pallottole giungono a destinazione, ma poi tornano indietro. E questo articolo abbastanza lungo comunque ci ha ricordato ancora una volta quelle che sono le questioni ambientali nella regione Calabria. L'acqua è proprio una di queste questioni che in tutta Italia, ma in particolare in Calabria, come vediamo con queste dighe fasulle, sentiamo maggiormente ed è certamente uno di quei problemi da risolvere urgentemente per difendere in primo luogo quello che è il diritto alla vita e all'esistenza. Senza acqua non possiamo vivere ed è inutile che ci prendano in giro e che ci facciano bere appunto fanghi. E anche per questa puntata Indie Radio finisce qui. Chiudiamo dunque con questa notizia che riguarda l'ambiente e vi ricordo che Transizione di Fase ospita il programma Indie Radio, programma gestito e curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Per questa sera abbiamo letto solo articoli che sono provenuti dal newswire di Calabria Indie Media. Lo abbiamo fatto soprattutto perché vogliamo invitarvi a pubblicare e a utilizzare, oltre che chiaramente a leggere, le pagine di Calabria Indie Media. Quindi vi salutiamo e vi ricordiamo ancora una volta i nostri orari: ogni venerdì alle ore 20:30, siamo in replica di sabato dalle 20 alle 20:30 circa, dipende da come ci gira. Buon ascolto sulle frequenze di Radio Transizione di Fase e continuate a seguire Indie Media Calabria ed Indie Media Italia, chiaramente. Un arrivederci a tutti. Diamante grezzo, non vedo via di uscita. Diamante grezzo, avvieni a letto con me. Ti presento il mio sacchiotto di peluche. Lungo strade e sentieri.